Motore partito, azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto! We're going to dance. We're going to dance. And have some fun. The chills that you spill up my back keep me filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dish, my succotash wish. Sing it, baby. I couldn't ask for another. No, I couldn't ask for another. Groove is in the heart. Just lovely and delicious. Got a deal you wanna know. Delightful, truly delightful. Making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart especially. Hilt of the rhythm, where I wanna be. Come on, blowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me. Baby, you'll see that rhythm is the key. Get witty, can't think, quit it. Stomp on the street when I hear a funk group. Blue playing pop pipe, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. Groove's in the Heart, chi di voi non l'ha ballata almeno una volta negli anni 90, questa in una qualsiasi discoteca? Benissimo, io sono Emanuele, questa era Delight, Groove's in the Heart, dalla colonna sonora del film Corpi da Reato, che uscirà in ottobre di quest'anno, del 2013, con la bellissima Sandra Bullock e con Melissa McCarthy. Benissimo, questo è Movieland naturalmente, come tutti i sabati pomeriggio dalle 18 alle 19, Emanuele insieme a voi per tenervi un'ora di compagnia, in compagnia appunto del migliore cinema italiano, internazionale, di mainstream, ma anche indipendente. Benissimo, oggi puntata densa di cose, densa di interviste, densa di ospiti, quindi bando alle ciance e andiamo subito avanti con questa bellissima canzone invece, che proviene dagli anni 70? Ma sì, Summer Nights, Grease, buon ascolto su Movieland. Loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to the summer nights. Tell me more, like does he have a clue? Oggi a Movieland c'è anche spazio per il cinema, diciamo, d'autore. E questa è la volta di Graziano Salvatori, Salvadori, che lo conoscerete tutti, il comico toscano, il regista, l'autore di questo film, che si chiama Sarebbe Stato Facile. Noi l'abbiamo qui. Ciao, Graziano. Ciao a tutti. Ciao. Allora, ciao, parlaci... soprattutto. Grazie. Allora, vediamo un po', parlaci un pochino di questo film che vede, diciamo, un grande cast di attori toscani, cioè Novello Novelli, Nichi Giustini, sì. Alessandro Paci, Sergio Forconi, insomma. Sergio Forconi, Tiziana Caserta, Cristina De Pin, tutti toscani. Guarda che io ho avuto grosse difficoltà a Roma, questo lo dico con orgoglio, perché volevano che io cambiassi gli attori. Volevano attori, come dicevano loro, più famosi, attori più, certo, più importanti, eccetera. Io ho detto, guardate, io ho scritto questo film scegliendo le parti, e scrivendo direttamente su ogni personaggio. Certo. Quindi cambiare adesso significherebbe riprendere la parte, che ne so, se mi cambiano Giustini con un altro attore romano, con Giallini, o io devo riscrivere tutta la parte. Certo. Quindi gli attori sono stati bravissimi, perché comunque la parte era scritta direttamente su di loro, e questo lo dico con orgoglio per aver scelto questi attori. Benissimo, di che cosa parla il film? Raccontacelo in breve, diciamo. La storia del film è una delle storie più attuali in questo momento, è la storia di quattro amici omosessuali da sempre, due uomini e due donne, che vivono in un piccolo paese, e vivendo in un piccolo paese, chiaramente, perché è così purtroppo, devono far finta di essere etero. Certo. Non possono dimostrarsi per quello che sono, perché tu saprai benissimo, perché comunque vivendo in un paese succede questo, che quando uno è gay viene preso in giro continuamente da tutti, viene schernito da tutti, e questa è una cosa bruttissima, e ti spiego anche perché ultimamente si sta parlando di fare una legge sull'omofobia. Quando noi facevamo educazione civica comprendeva anche questo, il rispetto per tutto quello che esiste al mondo. Allora, basterebbe spiegare che ci sono le famiglie, che possono essere famiglie eterosessuali, famiglie allargate, famiglie di uomo e uomo, famiglie di donna e donna. Se tutti rispettassero le altre persone, non ci sarebbe bisogno di questa legge assurda. Sai, qui in Italia magari è un po' più difficile rispetto alla Spagna, eccetera, perché essendoci il Vaticano, qui diventa un pochino tutto più complicato. Aspetta, io sto parlando di legge sull'omofobia, non di matrimoni. Matrimoni in Italia sì, penso sia quasi impossibile. Infatti il film, adesso ci entriamo, entra in scena, la prima scena è nel 2040, torna ai giorni nostri, e fine nel 2040. Okay. Quindi significa che probabilmente anche in quell'epoca non ci sarà una accondiscendenza da parte della Chiesa, anche se il nostro Papa Francesco, che ringrazio a nome di tutti, si sta veramente battendo anche per queste cose. Allora, vediamo un attimo. Quindi, nel film tu sei il fidanzato di Nichi Giustini. E poi c'è anche una coppia di donne. Che sono... Poi c'è una coppia di donne che è formata dalla mitica Katia Beni e dalla bellissima Beatrice Maestrini. Ora, per non fare tutto un film improntato su un argomento solo, che è l'omosessualità, ho messo anche un'altra coppia, in questo caso etero, che è formata da Alessandro Paci e Cristina De Pin. Alessandro Paci tutti lo conoscete, Cristina De Pin è famosissima per fare per aver fatto quelli che è il calcio, per fare cielo con l'avventura, certo, di aspettare della Serie A, sì, e anche per essere la fidanzata di Riccardo Montolivo. Poi ci sono veramente due icone importanti del cinema italiano, mm-hmm, quando dico italiano non toscano, che sono Sergio Forconi, certo, famosissimo in tutti i film di Leonardo Pieraccioni, ma anche in tantissime altre fiction toscane e anche nazionali, soprattutto nazionali, e il mitico Novello Novelli, chi non si ricorda le borse di Novello Novelli. Grandissimo Novello Novelli, l'ho conosciuto personalmente come Katia Beni, e sono due persone, anche Sergio Forconi, e come diciamo mi piacciono tutti moltissimo, sono persone fantastiche. C'è però anche qualcuno dell'ambito porno in questo film. Allora, c'è un altro attore che non è toscano. Non è toscano. E che è Franco Trentalance. Ora tutte le donne, quando tu parli di Franco Trentalance, le donne subito ti dicono: ah, ho capito, è quello che ha fatto la talpa, quello che fa la talpa su Rai 2, che ha fatto la talpa su... In realtà lui non ha fatto la talpa, ha fatto il buco per la talpa. Questo è importante sottolinearlo. Però in questo film lui ha un ruolo importantissimo, che è un ruolo che poi dà anche una svolta a tutto il film. Lui fa l'autista, mm-hmm, di questa coppia etero, e porta in giro la ragazza da tutte le parti. Non c'è niente a che vedere con il porno, una parte bellissima, certo, una parte molto dolce e sentimentale. Benissimo, ascolta, allora il film uscirà venerdì. Il film esce il 26 in tutte le sale italiane in Italia, mm-hmm, mentre il 25 facciamo un'anteprima nazionale a Viareggio. E anche questo è un avvenimento, perché a Viareggio poche volte viene scelto per fare anteprime, mm-hmm, nazionali, erano anni che non veniva scelto. Certo. Io l'ho scelto per vari motivi, perché intanto perché vivo in Versilia da diversi anni, e poi perché penso che la passeggiata di Viareggio sia una fra le più belle, certo, al mondo. Parlo del Lido, quindi vicino al mare. Benissimo, quindi noi abbiamo parlato appunto di questo film, Sarebbe stato facile, che uscirà il 26 in tutti i cinema italiani. Noi non possiamo far altro che esortare tutti gli ascoltatori ad andarlo a esortiamoli parecchio ad andarli a vedere questo, che sono è il primo e il secondo film di Graziano Salvadori, come dicevi prima, no? Sì, no, io spero sia il primo di una lunga serie, però potrebbe essere anche il secondo, cioè il primo e l'ultimo che faccio. Spero sia il primo di una lunga serie, che ci sono altri progetti. E certo, poi perché comunque, guarda, ti posso dire una cosa importante: la troupe che ho portato da Roma, che erano amici con i quali avevo lavorato nel 2000, sì, sono venuti e hanno girato in Toscana con me. Si sono trovati benissimo, certo, e loro vorrebbero continuare, ma non loro perché sono loro, sono amici miei, vorrebbero lavorare in Toscana, perché comunque la Toscana per lavorare è molto più facile per quanto, certo, riguarda i permessi, per quanto riguarda i paesaggi, che non ti devi sforzare a trovare paesaggi belli, ti giri, se quello non va bene giri la macchina e l'hai già trovato. Di solito, quindi, anche, di solito anche per quanto riguarda i cestini, che apprezzano tutti moltissimo sempre, come si mangia, bravo, a Toscana, i cestini toscani che sono fantastici, perché abbiamo delle pastasciuttine e dei salumi niente male. Certo, benissimo, grazie Graziano. E, grazie a te. E niente, allora che tutti vadano a vedere il tuo film, ci andrò anch'io sicuramente. Grazie per essere stato insieme a Movieland. Grazie a Movieland, a tutti i fan di Movieland, e soprattutto a te, grazie, ciao. Parla amore, comincia tu. Raffaella Carrà remixata da Bob Sinclair per questa bella canzone del 2011, utilizzata nel film di Claudio Sorrentino per quanto riguarda La Grande Bellezza. Noi però vogliamo continuare perché abbiamo un ospite che sicuramente conoscete tutti, ve l'ho presentato la settimana prossima. Eccoci qua. Altra settimana di Movieland, altra settimana insieme al nostro cinefilo qualunque, ossia Simone. Salve a tutti i cinefili di tutto il mondo. Sono di nuovo qui. Di tutto il mondo, unitevi. Benissimo, sì. Allora, di che cosa vogliamo parlare questa settimana? Raccontaci. Allora, ultimamente ci sono state parecchie notizie riguardo l'attore che interpreterà il prossimo film di Batman vs Superman, e cioè Ben Affleck. Mamma mia. Diciamo che il pubblico si è diviso a metà a riguardo, e noi ne vorremmo parlare, insomma, esprimendo la mia opinione al riguardo, e certo, anche l'opinione del buon Emanuele, insomma. Parliamone pure. Sì. Che cosa se ne è pensato? Il pubblico è stato diviso a metà, ovviamente, per quanto riguarda la scelta dell'attore e per quanto riguarda la valenza che potrà avere nei panni del grandissimo Bruce Wayne. Certo. Diciamo che per quanto mi riguarda sono polemiche un po' sterili, perché se andiamo a guardare, facciamo un piccolo salto indietro, vediamo che parecchie polemiche furono mosse anche quando si scelse come attore Heath Ledger per Batman il Cavaliere Oscuro, e molti dissero che era un attore totalmente inadeguato, totalmente sbagliato, non c'entrava niente con il Joker, eccetera eccetera, molti anche con delle polemiche molto aspre al riguardo. Ovviamente sono stati tutti clamorosamente smentiti, certo. Visto poi il successo che ha avuto questo film, e visto poi l'eccellente interpretazione che ha saputo dare Heath Ledger, che secondo me questo film era comunque un successo annunciato, perché Heath Ledger ha fatto parecchie interpretazioni e bene o male se è sempre cavata bene, certo. In questa cosa è una cosa che secondo me ha in comune anche con Ben Affleck. Ci sono dei film ovviamente che sono molto minori di questo attore, questo è poco ma sicuro, però vediamo un attore che spesso e volentieri ha recitato in diversi tipi di film, dal dramma all'azione alla commedia leggermente più seria, o che sia anche cazzona, è riuscito insomma in questo scopo sempre bene. Quindi secondo me ritengo che questo sarà un attore che ci stupirà. Ma poi dipende molto secondo me anche dalla sceneggiatura, l'attore alla fine non si inventa niente, l'attore interpreta il suo personaggio al meglio, però interpreta quello che c'è scritto sul copione, e se il copione fa schifo l'attore farà schifo, cioè poche sono le volte che un attore riesce a migliorare molto un copione, se il copione fa schifo l'attore fa schifo di solito. Ah, sì, assolutamente. Abbiamo tanti esempi di attori straordinari e bravissimi del passato che si sono ridotti a fare dei film che secondo me fanno schifo. Ho visto diversi film di De Niro che francamente sono delle opere molto minori, ovviamente, certo. Ma dipende sempre dal film, dipende sempre da quello che in un certo qual modo si ritrova ad interpretare. Questo sì, e comunque abbiamo capito che Ben Affleck ha le sue carte da giocare e magari le giocherà. Ma Batman in questa versione, diciamo, in questo film, nuovo film, Batman contro Superman, è accompagnato dal fedele amico di tutta la vita, Robin, e ci sono stati anche dei rumors su questa cosa di Robin, raccontami. Per fortuna rumors infondati a quanto sembra, perché bene, sì. È il grandissimo e straordinario, che io lo amo con tutte le mie forze, Justin Bieber, ovviamente ero sarcastico, certo. Ha postato una foto, non so se sia stato lui o qualcun altro, in cui impugnava il copione di Batman vs Superman e asseriva a quanto pare che avrebbe interpretato il buon Robin, e quando l'ho visto ho sgranato gli occhi e mi si è fermato il cuore per qualche minuto, perché ho detto, se fanno una cosa del genere io penso che ucciderò qualcuno a caso, se poi mi capita Justin Bieber molto meglio. Grazie al cielo a quanto pare era una bufala, una trovata pubblicitaria che non si fatica a credere il motivo per cui l'abbia fatto, cioè non si fatica a capire loro il motivo, insomma. Certo. Abbastanza ovvio. L'importante è che se ne parli, bene o male, qualcuno diceva questo, no? Bene, noi, il nostro tempo a disposizione è finito anche stavolta. Io ti ringrazio, Simone, per essere stato un'altra settimana con noi. Vi ricordo a tutti gli ascoltatori il canale di Un Cinefilo Qualunque su YouTube. Andate, sottoscrivete, guardate i video di Simone, che magari potete anche vincere un premio. Sei già arrivato a 1000 utenti? Ma manca ancora un po', ci vorrà ancora un po' di tempo, però non ho mai avuto assolutamente fretta e mai la provo, quindi benissimo, faccio con tutto con la mia solita pacatissima calma. Quindi ragazzi, ascoltatori, tutti sul canale di Simone, guardate i suoi video perché sono molto interessanti. Io ti ringrazio ancora e ci sentiamo la settimana prossima. Head on, ma sì, il cappello lasciatelo, vai, mentre intanto ci fai un bello spogliarello e ci intrattieni un attimino. Bellissima questa canzone di Joe Cocker, 9 settimane e mezzo naturalmente. Io vi ricordo che sono Emanuele, vi ricordo che siete sulla vostra web radio preferita e state ascoltando Movieland, che andrà in onda dalle 18 alle 19, quindi ci rimane circa una mezz'oretta da passare insieme, la vogliamo passare al meglio perché Movieland ha ancora tanti contenuti da offrirvi, come il prossimo Movieland, il cinema alla radio, spazio in collaborazione con filmapp.com. più sei vicino alla morte, più ti senti vivo. Benvenuti al duello più appassionante dell'ultimo decennio. La prossima volta ti batto. Non hai speranze, pensi solo alle feste. Un duello assolutamente incredibile tra due grandi piloti. Dal vincitore del premio Oscar, Ron Howard. Mi sento responsabile per quello che è successo. E sei responsabile anche d'avermi fatto risalire in macchina. Più forte della paura della morte è la voglia di vincere. È tutta la vita che aspetto questo momento. Non basta essere veloci per essere un campione. Devi crederci. Rush. È arrivato il momento di fuffare. Odio la mia vita! I buffi due! Come osi! Imbecille! Dal 19 settembre al cinema! Il weekend perfetto. Voglio solo che sappiate quanto significhi per noi che siate tutti qui. La famiglia perfetta. Ma in un istante tutto cambierà. Gli animali vi daranno la caccia. È noi che vogliono. You are next al cinema. Lui è l'uomo della mia vita, ma nella mia famiglia il primo matrimonio non è mai quello giusto. Per sposarlo, mia sorella e io abbiamo un piano. Geneve, vieni a vedere. Allora? Mi sembra che vada. Oh, che caldo qui. Ti rendi conto di quello che stiamo facendo? Sì. Ma dai, l'hai fatto! No! Non è altro che un grosso amicone, vedi? Lisa, che hai fatto con lo shampoo? È finito! Grazie. Come ho potuto credere che a una come lei potesse interessare uno come me? Sei solo arrivato nel momento sbagliato. Piano perfetto. Dal 19 settembre al cinema. Spazio in collaborazione con filmapp.com. Moviland. Il cinema alla radio. E anche per questa settimana siamo arrivati all'appuntamento con Filmapp, il portale del cinema che potete trovare all'indirizzo internet www.filmapp.com, dove ci sono tante notizie cinematografiche di tutti i tipi, ma anche per quanto riguarda l'home video, le TV, le vostre celebrità preferite, eccetera eccetera. Siamo insieme alla coordinatrice di redazione Erika Melis. Buongiorno. Buongiorno a te. Allora, che si dice in Sardegna? Perché voi avete una sede bellissima. Siete in Sardegna. Sì. Come si sta? No, si sta bene. Devo essere sincera, ieri e oggi c'è caldo, per cui insomma. L'estate ancora non è finita. Dai, finirebbe oggi sabato 21. Vediamo un po' cosa succederà domani, se già arrivano bufere, venti e tempeste, ma speriamo anche di no, insomma. No, dai, speriamo di no, anche perché arriva il Papa proprio domani. Ah, viene pure il Papa, questo Papa gira benissimo, molto simpatico. Benissimo, allora, però noi vogliamo parlare di un'altra cosa, perché udite, c'è un'uscita editoriale molto interessante che preannuncia anche magari un futuro cinematografico. Parlacene. Beh, sì, è il sequel di Shining. È impossibile dimenticare il film del 1980 con Jack Nicholson nei panni di Jack Torrance. E ora Stephen King, dal 24 di settembre, pubblicherà, insomma, si potrà acquistare Dr. Sleep, che è il sequel, e vede Dan Torrance, che all'epoca era il piccolo bambino. Protagonista, divenuto ormai un uomo di mezz'età, e che però si porta ancora appresso, come puoi immaginare, le conseguenze di quella terribile esperienza al famosissimo Overlook Hotel. Sono traumi questi là. Da giovane porello, un babbo così, vabbè. E comunque ha ancora il suo dono, non so se ti ricordi la luccicanza, proprio lo Shining, lo usa per dare sollievo alle persone di una casa di riposo dove lavora, e si troverà poi a dover aiutare una dodicenne che è il suo stesso dono. Uh-huh. Ed è inseguita da un gruppo chiamato True Knot, qualcosa di simile. Uh-huh. Ed è un gruppo di viaggiatori quasi mortali che si spostano per le autostrade dell'America alla ricerca di ragazzi con questo dono per rapirglielo, rubarglielo, naturalmente uccidendoli tra atroci sofferenze, ecco. Come insomma nello stile di King. Che bellezza, che bellezza. Ma ci sono rumors, cioè verrà fatto un film di questo libro? Guarda, per il momento non c'è ancora niente, anche perché comunque sarà veramente difficile prendere l'eredità di Stanley Kubrick e fare un adattamento del nuovo romanzo all'altezza del film che insomma tutti conosciamo e tutti amiamo. Perlomeno decente da paragonare, sarà molto difficile. Magari si inventeranno che è liberamente tratto da e che non è il sequel e che di qua e che di là. Va benissimo. parliamo delle uscite in sala, perché anche questa settimana ce ne sono molte che sono anche molto attese, come quella appunto del film sulla Formula 1, sull'incidente di Niki Lauda, dalla regia di Ron Howard. Esatto, è un film attesissimo che ha ricevuto finora critiche entusiastiche, vediamo poi come risponderà il pubblico, ed è ambientato negli anni d'oro della Formula 1 e parla principalmente della rivalità tra due grandissimi piloti come James Hunt e Niki Lauda appunto. Tra l'altro nel cast, una piccola curiosità per l'Italia, c'è anche Pierfrancesco Favino, un piccolo pezzo d'Italia in una produzione internazionale. E so che io non ho ancora visto il film, però so che ci sono moltissime scene anche in pista oltre. Sì, sicuramente per tutti quelli che amano la Formula 1, quindi questo qui è un film prettamente per maschietti, diciamo, molto atteso, perché insomma il trailer sta girando da 6 mesi perlomeno, quindi sì. Insomma è un film molto atteso. Ron Howard sa come fare per far andare a vedere i suoi film, e appunto Ron Howard sta anche preparando il nuovo film ispirato alla Balena Bianca, Moby Dick, che inizierà a girare a ottobre alle Isole Canarie a Tenerife, dove curiosità delle curiosità, era già stato girato il vecchio Moby Dick degli anni 50 con Gregory Peck, mi sembra, e in questo caso era stato girato a Gran Canaria, invece questo sarà girato a Tenerife. Allora, poi continuiamo con il sequel, stavolta dei Puffi, dove il protagonista principale in questo episodio è Puffetta, che viene rapita da Gargamella, perché vuole come sempre carpirle il trucco per far diventare una creatura un puffo. Sì, e nel frattempo Gargamella, che si è trasferito a Parigi perché era rimasto, non so se hai visto la precedente episodio, però lui era rimasto intrappolato nel mondo degli umani, è diventato famosissimo come mago a Parigi. E allora porta Puffetta lì, dove cerca appunto di portarla dalla sua parte e farle dimenticare la sua famiglia, Grande Puff, insomma tutti gli altri. Poi, per chi invece vuole ridere, arriva un'altra commedia francese, questa volta con protagonista da Ryan Kruger e Danny Boom, quello di Jewel Nord, e si intitola Un piano perfetto. Infine, l'ultimo film di cui volevo parlare questa settimana è un horror, si intitola You Are Next, ambientato come d'obbligo per un horror in una casa isolata, dove una famiglia si è riunita per festeggiare un anniversario di matrimonio, costruita su un vecchio cimitero indiano infestata dai ragni maledetti. Sì, vabbè, se le trame sono quelle poi. No, in questo caso saranno solo delle persone con delle maschere che raffigurano degli animali, che prendono la casa d'assalto e iniziano a uccidere i vari componenti della famiglia armati di asce e balestre. Ah, bene, un gallina in fuga tipo horror, diciamo, una cosa del genere. Vabbè, andiamo al botteghino, che forse è meglio, va. Quali sono gli incassi? Chi ha vinto questa settimana? Allora, al botteghino questa settimana abbiamo due novità nelle primissime due posizioni, Percy Jackson e Come ti spaccio la famiglia. Entrambe superano il milione di euro e diciamo, insomma, se la cavano. Massimo. Mentre al terzo posto abbiamo Monsters University. Vabbè, comunque, bel box office, Percy Jackson, Come ti spaccio la famiglia, Monsters University. Ragazzi, aiutiamo i film che sono in sala invece questa settimana, che siano campioni di incassi della prossima. Andate a vedere il buon cinema internazionale, mi raccomando, non lasciate le sale vuote. Grazie a Erika Melis per essere stata con noi al portale Film Up, che tutte le settimane ci tiene compagnia. Grazie a te, ciao. Moviland, il cinema alla radio. If I should stay, begin your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Love You, bellissima questa canzone di Whitney Houston, un evergreen, un sempreverde dal The Bodyguard del 1992. Questa bellissima cantante, che purtroppo sappiamo che cosa gli è successo, comunque ci ha lasciato tantissime bellissime perle per quanto riguarda la musica internazionale. Siamo in dirittura d'arrivo, mancano ancora 15 minuti circa a finire il programma. Noi abbiamo ancora due appuntamenti molto importanti, due interviste da farvi ascoltare, quindi basta così, bando alle ciance e vediamo un po' di che cosa si tratta. A Movieland oggi abbiamo una sorpresa. Allora, per definizione nel cinema il cane è quel, nel gergo cinematografico, è quell'attore che diciamo che non riesce a fare bene il suo lavoro, insomma che non recita bene eccetera, però ci stupiremmo scoprendo che ci sono cani che invece recitano meglio delle persone, ma è comunque merito di specialisti che addestrano appunto questi animali. Vogliamo parlare con uno di loro, si chiama Claudio Mangini, un animal trainer cinematografico. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutti gli amanti del cinema, della nostra grande mamma, come la definisco sempre io. Tutto bene? Tutto bene, tutto perfetto. Quindi ho detto bene che ci sono dei cani che recitano meglio che alcune persone? Hai detto benissimo. Considera che poi il problema spesso e volentieri sul set è sempre quello, che il cane magari interpreta sempre i frame alla maniera corretta, anzi in una maniera superba, e poi magari ci sono gli attori a due zampe che invece si perdono le battute per la strada. Può capitare spesso e volentieri. Claudio Mangini è specializzato in cani, lupi selvatici, rapaci, cavalli. Se vedete una pubblicità, un film nel quale ci sono degli animali, è molto probabile che li abbia addestrati. Claudio, raccontaci un po' del tuo lavoro. Cosa fai te la mattina quando ti alzi? Cioè... guarda, l'animal trainer io credo che non sia un mestiere ma sia un vero e proprio stile di vita, perché la tua mattina, la tua giornata, diciamo così, comincia estremamente presto alle 7 mattina e finisce la mattina alle 6 del giorno dopo, perché ecco, è una vita costante che si ha con gli animali, essendo poi anche tanti, perché quando si lavora, come nel mio caso, con tante specie, hai a parte tutti i problemi logistici, ma poi c'hai anche quindi dargli da mangiare, pulirli, dargli il benessere supremo che si può dare a un componente della famiglia, perché di fatto poi almeno i miei animali sono componenti della mia famiglia, diciamo che ho una famiglia un po' allargata. Certo. E questo implica comunque ovviamente una vita di squisito sacrificio, come la chiamo io, perché è una scelta di vita che ti porta poi a fare questo bellissimo mestiere. Poi c'hai tutti gli addestramenti mirati, certo, per le varie scene che andrai a interpretare, e è sempre molto complesso. Poi hai bisogno di tutte quelle nozioni di cinematografia, di fotografia, certo, di prostetiche sceniche. È un po', è un vero e proprio attore, con la differenza che il modo per spiegarglielo non è scritto e letto come si fa in sceneggiatura e poi interpretato, ma sei tu che fai da sponda, insegnandoli appunto tutto quello che poi dovrà compiere, le evoluzioni che dovrà compiere in modo molto naturale, affinché non, quasi non si percepisca nemmeno che dietro ci sia un animal trainer, certo, un lavoro di addestramento. Prima fuori onda mi dicevi che hai curato lo spot di Celentano, del programma Celentano dell'anno scorso, Rock Economy, dove si vedevano moltissime specie di animali ed erano tutti i tuoi animali che hai portato tu. Ma una domanda, ti chiedono una pantera nera, cioè tu ce l'hai in giardino oppure come funziona? No, ce l'ho nel bagno. No, quando ci sono degli spot che sono o delle sigle, come nel caso di Rock Economy, che sono estremamente complesse, perché hai veramente tantissimi animali sul set. In quel caso ne avevamo una ventina, divisi tra felini, grandi carnivori, lupi, cani, rapaci, serpenti, scorpioni, certo, iguane, c'era veramente di tutto. E lì ovviamente ci si avvale anche della collaborazione di alcuni colleghi, tra l'altro Gianni Mattiolo, che saluto con l'occasione, anche lui è un animal trainer cinematografico, mm-hmm, che si occupa proprio dei grandi carnivori e dei felini soprattutto. Ah. È stata un'esperienza meravigliosa, perché tu sai, mi insegni che il cinema è un forte gioco di squadra, certo, quindi quando è possibile cerchiamo di essere più di uno, a parte io con i miei assistenti, ma poi anche Gianni venne con la sua assistente e si riuscì a portare avanti questo bellissimo spot, che ha veramente tante soddisfazioni, perché a parte Celentano è Celentano, ma poi Rock Economy era particolarmente fortunata, tanto che Mediaset l'aveva spinta tantissimo con questa pantera bellissima che io ho fatto rinviare a Fermo. Credo che sia un po' lo showreel, come lo chiamiamo noi, della mia attività. Certo. Quando mi chiedono lo showreel, puntualmente io mando quello. Certo. Progetti futuri, cosa stai facendo adesso? Guarda, e cosa adesso farai? Guarda, io sto lavorando adesso al film di Mario Tore, che si intitola Il giovane favoloso, che è la vita di Giacomo Leopardi. Tra l'altro sono fortunato perché lo sto girando a pochi chilometri da casa, finalmente ho la fortuna di girare questo. E poi la fortuna non mi ha abbandonato, perché lunedì giro con Valentino Rossi lo spot della Yamaha. Cosa, quali animali sono in scena in questi due film, questo che stai girando e lo spot di Valentino? Guarda, nello spot di Valentino ci saranno i lupi, saranno i lupi, e sono un branchetto di 5 lupi, e poi abbiamo nel giovane favoloso invece abbiamo i cani. È una scena tra l'altro piuttosto delicata, perché sono scene di, non dico di attacco, però insomma di simulazione di attacco, dove il cane in poche parole cerca di minacciare il giovane Giacomo Leopardi. Stiamo cercando proprio di ricostruire da un punto di vista storico quello che è successo, e quindi le difficoltà sono ancora maggiori. Benissimo, quindi Claudio Mangini è uno dei 24 animal trainer, diciamo con una certa esperienza alle spalle al mondo. In Italia ce ne sono solo due, lui e Daniel Berchini, che è un carissimo amico e collega che saluto con l'occasione, perché sicuramente ci sta sentendo. Abbiamo fatto anche delle feature insieme negli anni passati, dove magari io portavo delle, lui portava delle altre, Lui fa parte del vecchissimo cinema, quindi io sono un po' anche cresciuto avendolo quasi come un punto di riferimento cinematografico. E comunque in ogni set si impara sempre qualcosa, quindi insomma a chi piace appunto questa vita, che alla fine è una vita anche un po' di stent in alcuni casi, però è molto molto bello perché ti dà la possibilità di imparare sempre cose nuove film dopo film. E tutte le volte c'è, come hai detto appunto, qualcosa di nuovo da imparare, e tutte le volte che tu lo fai questo film, quando l'hai finito poi ti rendi conto che forse era il film migliore, poi quindi pensi sempre che sia quello dopo quello ancora migliore, che è ancora certo, molto di più da dire, perché appunto acquisendo sempre più esperienze nonostante i tanti anni che ho girato, ogni volta è veramente una scommessa nuova, e questo è bellissimo. Benissimo, grazie Claudio, è finito grazie il tempo a nostra disposizione, mi raccomando ascoltaci tutte le settimane, perché come abbiamo sentito te sentiremo anche tutti gli altri mestieri del cinema. Un saluto a Claudio Mangini, grazie per essere stato insieme a noi. Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro a tutti. Battente del 1980 di questa bellissima canzone dei Queen, Another One Bites the Dust, è venuto a trovarci in questo sabato pomeriggio di settembre, fine estate. Ragazzi, fine estate e anche quasi fine programma, ma abbiamo ancora qualcosa da dirvi, quindi rimaniamo qua fino all'ora da noi prefissata, che sono le 19. Vi ricordo che siete insieme a Movieland, questa era appunto Queen, Another One Bites the Dust, una canzone che è stata colonna sonora di almeno tre film, tra cui l'ultimo è stato Iron Man 2. Benissimo, noi a che punto siamo arrivati? Regia, fateci sapere. Benissimo, eccoci qua. Allora, dobbiamo parlarvi dei festival. Allora, se avete un cortometraggio, un film, un qualsiasi cosa, sappiate che ci sono sempre festival in scadenza, voglio dirvene solamente 4-5. Praticamente il 23, tra due giorni, scade il Ravenna Nightmare Film Fest, quindi se avete un bell'horror mandatelo lì. Il Festival Cinema Méditerranée a Bruxelles, che scade il 27 di settembre. Poi abbiamo il Chennai International Film Festival con scadenza il 30, come scadono anche il Fort Lauderdale International Film Festival, il Göteborg Film Festival e il Trieste Film Festival. Quindi se avete dei lavori da mandare a questi festival, mi raccomando, perché è il vostro momento. Adesso invece è il momento di collegarci naturalmente con Sara. Benissimo, a Movieland si sta avvicinando l'ora della cena e quindi sentiamo un certo languorino, un'acquolina in bocca, e vogliamo parlare un po' di cinema e cibo, e lo vogliamo fare insieme a Sara. Ciao Sara. Ciao a tutti. Ciao Sara, allora dici, perché questa qui è una cosa, è una novità, che succede? Allora, intanto mi è venuta l'idea proprio di parlarvi di questo film, perché è uscito da poco in DVD, ed è il film è La cuoca del presidente di Christian Vincent. Uh-huh. E parla proprio di una storia vera di quella che è stata la cuoca dell'allora presidente François Mitterrand. È un film francese molto delicato, ha dei toni molto femminili e è un film sentimentale. I francesi hanno un po', si vede subito quando vai a vedere un film francese. Questa cosa sdolcinata al burro. No, non c'entra niente la sdolcinatezza, ma anche quando si parla di cucina o di cibo o di sapori o di odori, si capisce subito che si sta guardando un film francese. Ed è la storia appunto di questa cuoca che cucina appunto per degli operai impegnati in una missione in Antartico. Lei è molto ruvida, molto riservata, e loro scoprono che lei è stata la cuoca del presidente. Vogliono che lei parli di questo periodo della sua vita, ma lei ha dei ricordi molto belli, ma che tiene principalmente per sé. E noi vediamo proprio questo periodo in cui lei, che veniva da un paesino e gestiva un suo ristorante, viene scelta per essere la cuoca del presidente, per riportare al presidente, comunque, che vive questa vita fatta di impegni, fatta di cene di stato, eccetera, riportarlo ai sapori della sua infanzia. Ma interessante, e si vede anche qualche piatto la signora. Sì, che... assolutamente, come per un altro film di cui parleremo, molto famoso, che è uscito tempo fa, Giulia. Uh-huh. Si vedono proprio i piatti, si vede l'amore con cui lei cucina determinati piatti, l'amore che ci mette. Infatti addirittura c'è un momento in cui si insinua nella mente degli altri che ci possa essere qualcosa tra lei e il presidente. In realtà lei rimane sempre al suo posto e il presidente pure, ma c'è proprio questo scambio di sapori, di genuinità, dovuti proprio a una comunanza che loro hanno nell'amore per il vero cibo. La comunanza, benissimo, sì. bello, ci piace questa cosa qua. Quindi il cinema ha trattato spesso temi riguardanti il cibo. Sì, le ha trattati in diversi modi. Diciamo in questo caso, come appunto in Giulia e Giulia, si vedono proprio le ricette, la realizzazione delle ricette, e addirittura, se non è già uscito in Francia, credo uscirà tra poco anche qui, un libro riguardanti proprio le ricette della cuoca del presidente. E nel sito del film si vedono alcune ricette realizzate. Benissimo, quindi alle tante giovani casalinghe che magari ci stanno seguendo, che la sera arrivano, non sanno mai cosa fare da mangiare, niente, guardatevi un bel film a tema culinario che magari vi stuzzica la fantasia. La vedo sinceramente difficile, perché sono ricette molto e molto complesse. Le escargot con pomme de terre, per esempio. Le lumache con le patate, no. Vai a vedere, tu l'hai visto? Non l'ho visto. Devo... Ti consiglio di vederlo. Va benissimo, dichiaro la mia ignoranza e andrò a vedere questo bel film, La cuoca del presidente. Io ringrazio Sara una settimana ancora di essere stata con noi, di averci portato queste perle. Grazie Sara, alla prossima settimana. Grazie a voi, ciao Emanuele. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that. Mi dispiace tantissimo dover interrompere questa bellissima canzone di Gloria Gaynor, però siamo arrivati alla fine, ragazzi. Ebbene sì, ci stiamo approssimando alle 19 e dobbiamo salutare. Prima di salutare, io per tutti quei pigroni che non hanno voglia di alzarsi, prendere la macchina e andare al cinema, devo dare la guida TV di questa sera, perché anche stasera ci sono tre bei film. Su Italia 1 alle 21.10 Dragon Trainer, su Sky Cinema Comedy alle 21 Benvenuti al Nord, e su Sky Cinema 1 invece alle 21.10 c'è Harry Potter e i Doni della Morte parte seconda, quindi si suppone che ci sia stata anche una parte prima in qualche momento. Vabbè, voi intanto guardatevi questa. Quindi ragazzi, chi non vuole rimanere a casa sul divano, vada al cinema a vedere i grandissimi film di cui abbiamo parlato in questa puntata di Movieland, perché Movieland è il vostro programma di approfondimento cinematografico che vi accompagna ogni sabato dalle 18 alle 19 in compagnia di Emanuele sulla vostra web radio preferita. Quindi grazie a tutti per averci ascoltato e alla prossima settimana. Motore, partito, azione! Ciao, sono Emanuele e volevo ricordarvi che ogni sabato dalle 18 alle 19 va in onda Movieland, il cinema alla radio. Curiosità da Hollywood, panoramica sui film in sala, approfondimenti ed interviste con i protagonisti della settima arte. Il tutto accompagnato dalle canzoni che sono state la colonna sonora di tanti film e della vostra vita. Movieland, se siete amanti del cinema, è un appuntamento al quale non potete assolutamente mancare. Ogni sabato sulla vostra radio dalle 18 alle 19. Vi aspetto!